известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Can I write a check? Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Can I write a check? Yo. Yo. Vabbè, poi va avanti per un po'. È uno spot famosissimo, amatissimo in America, uno dei così fattori collaterali che hanno reso popolare Yao Ming, fino a farne uno dei giocatori dello sport professionistico, nella fattispecie della pallacanestro, più amati al mondo. Adesso Yao Ming è ai box, si deve operare per un serio problema al piede, sarà probabilmente assente buona parte o tutta la prossima stagione agonistica, ma ha trovato il modo, come dire, di assumere un ruolo centrale anche in questa sonnolenta, no, estate dello sport, della pallacanestro, nella fattispecie, diventando in un certo senso il simbolo di questo importante, interessante e direi anche promettente evento che si sta concludendo a Washington, ovvero questa due giorni. È già stata soprannominata il G2, tanto per tagliare corto, no? Per farla breve, per far capire chi comanda e chi conta. Incontro tra una nutrita delegazione cinese guidata dal vicepresidente nazionale della Repubblica Popolare Cinese e dall'altra parte invece la crema della crema della Casa Bianca edizione Barack Obama, il vice premier Wang Qishang, seguito da 150 funzionari che coprono i più vari ambiti dell'incontro. Dall'altra parte Barack Obama in testa, quindi una delegazione ancora più prestigiosa, Hillary Clinton al suo fianco in qualità di segretario di Stato, Timothy Gettner in qualità di uomo che deve parlare necessariamente di quattrini con i cinesi, e poi gli specialisti al centro dell'incontro, l'idea di mettersi in un certo senso d'accordo, di trovare dei punti comuni e di superare una fase che in un certo senso sembra già parte del passato. Io vorrei metterci una piccola testimonianza popolare e personale, scusatemi, pensate, 2005, secondo mandato di Bush, viaggi negli Stati Uniti, nella Washington politica, mi è capitato a più riprese di incontrare personalità politiche o anche rappresentanti della politica americana di primissimo piano e rendermi conto che per loro la Cina era a tutti gli effetti un pericolo. La Cina era un nemico, la Cina era a tutti gli effetti qualcosa da combattere. In sostanza non si trattava di una concorrenza, si trattava di un avversario, di una sfida con la quale confrontarsi apertamente. Si trattava di considerare la Cina il nuovo orso, questa volta giallo, anziché quello russo con i quali nel dopoguerra ci si era confrontati a lungo. Non c'era uomo politico che non dicesse: prima o poi si arriverà alle strette di questo confronto. Non c'era uomo politico che non accettava di buon grado perfino una domanda sui rischi più estremi connessi a questo confronto, ad esempio la possibilità, l'eventualità addirittura di una guerra tra Stati Uniti e Cina, naturalmente generata da fattori economici. Bene, siamo in un altro mondo, siamo a tutti gli effetti nel XXI secolo, così possiamo dire, è partito con la gestione completamente diversa da parte della presidenza Obama, in particolare di questo problema, con risultanze come la strada della diplomazia, innanzitutto la ricerca del luogo comune con la Cina, il superamento perfino di un appuntamento collettivo come il G8, dove in tanti si prova a descrivere e a affrontare il proprio punto di vista su questioni collettive planetarie, ma si resta in una sfera teorica, e invece si scende in campo uno contro uno, no? Come appunto capita anche nel basket, e si cerca di trovare il punto d'incontro. Obama in questo ha imitato anche Richard Nixon, ha scelto scelto in questo caso di usare proprio Yao Ming, ricorrendo a quella diplomazia dello sport che inizialmente, no, nel lontano 1971 aveva avvicinato una prima volta Washington a Pechino, no, con la racchetta da ping pong, la famosa celebre, leggendaria partita tra Richard Nixon e Mao Zedong. Adesso Yao Ming è stato usato, e si parla di diplomazia del basket, per lo spirito cavalleresco con cui affronta il suo sport, il suo cimento, ma anche per lo spirito di squadra e per quella incarnazione, no, dell'empatia sportiva, della voglia di collaborare, di trovare nel collega anche l'amico, anche il compagno di strada. In un certo senso l'America stende la mano, perché non può fare altrimenti, alla Cina. Il meeting arriva in un momento in cui i rapporti economici tra i due paesi sono segnati dal profondo deficit degli Stati Uniti, dal timore di Wall Street che l'interesse internazionale per il debito pubblico americano possa evaporare, dal momento che la Cina è il maggior detentore al mondo di buoni del tesoro statunitensi. Non a caso Timothy Geithner, il segretario del tesoro statunitense, e Wang Qishan, il vice premier cinese, hanno entrambi detto di intravedere segnali di ripresa nell'economia globale. Geithner ha detto che gli sforzi dei due paesi per sbloccare rapidamente lo stallo derivante dalla peggior crisi finanziaria dagli anni 30 rappresentano una svolta nella storia delle relazioni tra i due paesi, e Wang ha replicato dicendo che l'economia mondiale è a un momento critico, ma sta uscendo dalla crisi e si sta muovendo verso la ripresa. Secondo Barack Obama, Stati Uniti e Cina possono approfondire, proprio come fa Yao Ming con i suoi compagni, la collaborazione, promuovendo la stabilità finanziaria attraverso la trasparenza e le riforme al sistema di vigilanza. I due paesi possono inseguire l'obiettivo di un commercio libero e onesto, ha detto ancora Barack Obama. Possiamo introdurre cambiamenti alle istituzioni internazionali in modo che le economie in fase di crescita, come quella cinese, abbiano un ruolo maggiore, adeguato alle loro responsabilità. Obama ha detto ancora che se gli americani risparmieranno di più e i cinesi riusciranno a spendere di più, si potrà far sì che la crescita poggi su fondamenta più sostenibili. Quindi vedete proprio l'empatia, lo sforzo, la proposta di una compatibilità, anzi di una compenetrazione degli sforzi. Ha detto ancora Obama, perché proprio come la Cina ha beneficiato da investimenti sostanziali e da esportazioni proficue, la Cina può anche rappresentare un enorme mercato per i beni americani. A margine di tutto ciò e di questo importante incontro a cui oggi tutta la stampa statunitense, ma non solo, dedica grandissima attenzione, ben maggiore di quanta ne è stata dedicata a suo tempo al G8, perché si ha un po' la sensazione che qui ci sia la sostanza, che qui ci sia al di là delle forme e delle dichiarazioni d'occasione, si stiano gettando le basi, insomma, per nuovo decollo anche dell'economia americana, utilizzando accordi con l'unico partner che in questo momento è significativo che l'America prenda in considerazione. Ancora Geithner e Clinton congiunti, un'altra dichiarazione, auspicano cooperazione significativa con la Cina, valutano che le due nazioni possano insieme aiutare il mondo a uscire dalla crisi economica. Naturalmente in questo momento lo slancio è tutto americano nei confronti della Cina. La Cina ci può mettere probabilmente la sua preoccupazione innanzitutto per i molti soldi investiti oltreoceano, oltre Atlantico. Il successo delle principali economie mondiali nell'attenuare la potenza della recessione mondiale e nel preparare il terreno per la ripresa, hanno detto Geithner e Clinton in un comunicato congiunto, è legato in una misura sostanziale agli audaci progressi che le nostre due nazioni hanno fatto. Mentre avanziamo verso la ripresa, dobbiamo prendere delle misure supplementari per stabilire le basi di una crescita equilibrata e duratura per gli anni a venire. Naturalmente nucleare, ambiente, inquinamento sono le parole chiave di questo sforzo congiunto, ma sono in un certo senso gli accessori anche, no, politici. politicamente corretti di quello che a tutti gli effetti è l'inizio di un aperto invito alla cooperazione che l'America in prima persona muove nei confronti della Cina del 2009, della Cina del XXI secolo. Si è scelto un partner e, come vi dicevo in apertura, sembra veramente preistoria, no? Quel sospetto, quel carico di ansia, carico anche di una fiducia a tempo che nei confronti della Cina veniva espresso dalla maggioranza dei politici americani solo qualche anno or sono. Adesso l'America ha scelto un'altra strada e questo incontro crediamo sia un momento che verrà negli anni ricordati come un punto di partenza. Un altro incontro, pertanto, per concludere il panorama delle cose che succedono dentro la Casa Bianca, andrà in onda invece esattamente dopodomani e sarà un incontro assai meno epocale, assai meno ricordato dai posteri certamente, ma alla fine il famoso, ormai famoso, professore di Harvard Henry Louis Gates Jr. e il sergente James Crowley, colui che lo arrestò sulla porta di casa perché pensava fosse un ladro mentre era semplicemente un professore afroamericano che si era dimenticato le chiavi di casa, l'intervento di Barack Obama in diretta nazionale televisiva in prime time, lo ricorderete, ha giudicato stupido l'intervento della polizia in questa occasione, la violenta reazione da parte della polizia di Boston che ha ribadito che stava semplicemente seguendo le proprie procedure. Alla fine tutto finisce tra luce e vino perché entrambi i soggetti dell'incidente hanno accettato il famoso invito a prendersi una birra alla Casa Bianca con il presidente a fungere da paciere. Si incontreranno giovedì il professore e il poliziotto. Obama si è anche scusato per le sue dichiarazioni, ha detto di aver esagerato, ma non appena rimessi sugli aerei i 150-151 cinesi con il loro carico di prospettive economiche mondiali, Obama tornerà alla Casa Bianca, si toglierà la cravatta, farà chiamare il poliziotto e il professore e tutti e tre stapperanno una bella birra brindando, ma forse a un ritrovato equilibrio della cosa razziale americana, quella attorno al quale così tanto e poco al tempo stesso, no? Ha ricamato la candidatura di Obama e poi la sua presidenza. Ne vuole parlare, non ne vuole parlare, certe volte ne parla tanto, certe volte ne parla troppo, poi sistema le cose con una birra. fine stagione, perché poi si chiude, si tirano giù le tapparelle, Senato e Camera e Congresso americano se ne vanno in vacanza, ma finalmente al Senato, proprio in questi minuti, si sta votando la ormai, come dire, annosa, piuttosto lunga questione della conferma del giudice Sonia Sotomayor alla Corte Suprema. Insomma, ha superato tutti gli step, gli esami, l'hanno soppesata, interrogata su ogni possibile aspetto della sua vita professionale e privata, e adesso si sta andando incontro al voto. Ci sono sempre dei signori dall'aria molto molto seria che stanno da parecchi minuti dando le loro considerazioni, i loro giudizi sulla questione. Alla fine credo che questo timbro, no, sul suo passaporto di giudice della Corte Suprema lo metteranno, anche perché sennò si arrabbierebbe. Dura meno di voto della finanziaria italiana. Del resto solo a inizio ottobre poi la Corte Suprema ricomincerà a tutti gli effetti il proprio lavoro. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Ci sembra di capire che Schumacher, dice la BBC, sì, Schumacher la BBC dice, sta seriamente considerando l'ipotesi di prendere il posto. Beh, è un altro colpo mediatico, insomma. No? Accidenti, veramente. Ma le alternative non sono moltissime. Addirittura Alonso in prestito. Uno scoop come pochi. Bene. Benissimo. Allora, io invece ho un'agenzia uscita un'ora fa che ci permette di riprendere un po' il filo anche del discorso fatto ieri con Maria Grazia Nardo, la nostra amica, insegnante, docente di Israele Moderno a Firenze, sul discorso appunto di Israele, dello stallo sulle colonie, sugli insediamenti in Cisgiordania, perché oggi c'è stato l'incontro tra Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, e l'inviato americano in Medio Oriente George Mitchell. I due se ne sono usciti con una dichiarazione congiunta che possiamo definire, al di là delle pieghe della diplomazia, come un nulla di fatto, perché dicono che i progressi sono stati fatti in questo discorso, però non si è ancora trovata una soluzione, quindi di fatto sono quasi al punto di partenza. Il problema è che Mitchell da un lato chiede, per conto di Obama naturalmente, il blocco totale di tutti gli insediamenti in Cisgiordania, mentre Netanyahu, e quindi il governo israeliano, insiste per consentire costruzioni limitate, però per garantire la crescita demografica naturale. Direi che su questo naturale poi si gioca tutta la partita. In Cisgiordania, ricordo, ci sono 2,5 milioni di palestinesi a fronte di, e l'abbiamo anche ripetuto ieri in trasmissione, più di 300.000 israeliani. È stata superata la soglia la, anche la psicologica. La sensazione è che si siano incagliati in un braccio di ferro numerico difficilmente risolvibile, se non esatto, sparigliando. Tutto questo mentre ieri sera, tra l'altro, un gruppo di coloni, un'organizzazione di estrema destra di coloni israeliani, ha protestato sotto casa di Netanyahu. Erano circa 1,500, che hanno anche rivolto slogan molto pesanti ad Obama, che è stato ribattezzato razzista. La sua razzista intenzione appunto di chiedere il congelamento delle colonie in Cisgiordania. Interessante questo cerchio che si va a chiudere, no? Anche con il discorso che facevamo poco fa, l'ultimo aggiornamento sulla piccola ma piccante storia del professor Gates e della questione razza in salsa New England, e poi dall'altra parte del mondo, in Israele, le proteste dei coloni che danno a loro volta del razzista a Obama, in una specie di rincorsa, no? Di rimpiattino senza fine. Invece voglio informare coloro che ancora non si sono stancati della storia, non per mancanza d'affetto nei confronti dell'artista, ma così un po' per saturazione, ma ci sono delle novità attorno al caso della morte di Michael Jackson. Si sta aggravando la posizione del suo dottore personale, che si chiama Conrad Murray, che era colui che ne seguiva anche i razionamenti quotidiani farmacologici assai sostanziosi a cui l'artista si sottoponeva per propria volontà, per tenere a bada tutta una serie di disturbi sia di carattere fisico, metabolico e anche umorale. Sarebbe venuto fuori che comunque è stato proprio il dottor Murray a somministrare alcune ore prima della morte di Michael Jackson un fortissimo anestetico che si chiama Propofol. Questa è la sostanza sostanza, in realtà il nome della medicina vera e propria è Diprivan. Nelle 24 ore prima della morte di Michael Jackson, il cantante avrebbe preso alcune dosi di questa medicina, che ora vengono ritenute la principale causa di decesso dell'artista. E in sostanza gli inquirenti stanno cercando dal dottor Murray la giustificazione professionale medica per questa somministrazione, che nel caso fosse stata immotivata o malamente dosata porterebbe a delle reali dirette responsabilità, per quanto limitate, del medico nella morte di Jackson. Do una rapida notizia di alleggerimento pescata sul China Daily, dove c'è una bellissima foto di un bellissimo Kobe Bryant. Elegantissimo, perché era a Pechino per presenziare ad un evento di beneficenza. La sua fondazione ha donato 5 milioni di yuan, che sono circa 730 mila dollari, ai bambini sopravvissuti al terremoto terribile del Sichuan di ormai più di un anno fa. Ricordo che l'NBA è popolarissima naturalmente in Cina, e il numero 24, la maglietta numero 24 della stella dei Lakers, è la più venduta, segnala il China Daily, in Cina, assieme a quella naturalmente di Yao Ming. Quindi chiudiamo il cerchio anche col discorso di Yao, con cui Stefano hai aperto la trasmissione. La diplomazia del basket è un fattore globale, lo sport fattore globale. Poco fa, mi dispiace per te, ma c'eri al tuo fianco, vedevo il faccione di Eto'o che faceva la conferenza stampa, credo. Altra storia. Trasmessa in diversi paesi, sì, no, ormai lo sport. Eto'o Ibrahimovic, insomma, scambio popolarissimo anche quello oltre i confini italiani e spagnoli. Bene, subito dopo le notizie e gli aggiornamenti di borsa, riprendiamo il nostro giro d'orizzonte, così prima delle vacanze d'agosto, nei principali scenari che Jefferson ha monitorato negli ultimi mesi. Parleremo con Andrea Margelletti, parleremo di Afghanistan, terra nella quale lui recentemente ha fatto un viaggio di informazione, di ispezione, di conoscenza. Ci aiuterà a valutare come stanno andando le cose da quelle parti. Siamo in attesa di perfezionare i nostri collegamenti, ma intanto vediamo alcune notizie su un personaggio che è tornato nell'ultima settimana prepotentemente al centro della scena internazionale dell'attività diplomatica, ed è Hillary Clinton. Vi ricordate, circa un mese e mezzo fa ha avuto un incidente, è caduta, si è rotta un gomito, è sparita dalla circolazione, al punto che sono state addirittura fatte alcune ipotesi sulla scarsa sintonia di visione tra Obama e Clinton. Sembrava che insomma una piccola frattura fosse un incidente non sufficiente a giustificare la sua lunga assenza dalla luce dei riflettori della politica internazionale. Invece si è rimessa adesso seriamente in movimento. Tra l'altro negli ultimi giorni è stata circondata anche da alcune indiscrezioni che riguardavano sue possibili intenzioni di riprovarci forse nel 2012, forse nel 2016, insomma di non aver messo una volta per tutte nel cassetto nel 2012, naturalmente solo in caso di rinuncia da parte di Obama, insomma di pensare ancora a una nomination democratica per la corsa, per una nuova corsa alla Casa Bianca, nonostante il disastroso andamento della sua scommessa elettorale del 2008. Ebbene, Hillary Clinton ha tagliato la testa al toro, ha detto: non risponderò mai più a domande riguardanti mie intenzioni elettorali di questo genere, mie aspettative presidenziali, sono impegnatissima sul fronte della segreteria di Stato che mi è stata accordata dal presidente Obama e assolutamente non toccherò l'argomento se i giornalisti me lo riproporranno. Per quanto mi riguarda non voglio neanche sentir parlare di Casa Bianca, noi diremmo anche forse non vuole più sentir parlare di quei 12 milioni di debiti che ha accumulato per correre alla Casa Bianca, per correre alla nomination per la Casa Bianca e che poi faticosamente adesso sta ripagando con il contributo prima di tutto di una serie di sostenitori e finanziatori. Sempre Hillary Clinton ha parlato nei confronti della questione iraniana e dell'arma atomica in Iran, una questione a cui tra l'altro penso che domani dedicheremo un approfondimento. L'Iran ha ribadito di non voler costruire armi nucleari il giorno dopo le dichiarazioni di Clinton, che ha definito vani gli sforzi del paese guidati da Mahmoud Ahmadinejad di ottenere l'atomica. In sostanza Clinton dice: non ci riescono, Ahmadinejad dice: non vogliamo, siamo firmatari del trattato di non proliferazione ed è nostro diritto avere delle attività nucleari pacifiche. Non c'è posto per le armi atomiche nella nostra difesa, secondo il portavoce del Ministero iraniano degli Affari Esteri, che si chiama Hassan Ghazghavi, durante il briefing settimanale alla stampa. Clinton aveva affermato che gli Stati Uniti non concederanno a Teheran alcun atteggiamento intimidatorio nei confronti dei paesi vicini. I vostri sforzi sono vani, aveva attaccato Clinton rivolgendosi ai dirigenti iraniani nel corso di una intervista rilasciata alla NBC. Ciò che noi vogliamo è rivolgere un messaggio a chi prende le decisioni in Iran per dir loro che se cercano di ottenere l'arma atomica per intimidire e proiettare la loro potenza, noi gli Stati Uniti d'America non glielo lasceremo fare. Questo secondo il capo della diplomazia americana. Ecco, ancora su Clinton e le sue speranze, le sue non speranze, anzi le sue negate speranze elettorali. C'è una dichiarazione del giornalista David Gregory di Meet the Press che l'ha intervistata, ricorda che ha insistito parecchio, insomma, che si è trovata davanti veramente una Hillary contrariata al momento in cui Gregory ha insistito per dire: ma siamo sicuri che non ci riproverai, siamo sicuri che non hai in un angolo almeno del cervello l'idea di rimettere piede alla Casa Bianca da presidente. E Gregory dice: guardate, Clinton in effetti uno spiraglietto aperto l'ha lasciato, perché ha detto: non ho assolutamente nella testa l'idea che tutto ciò possa accadere, non ho alcun interesse che questo accada, sono concentrata in quello che sto facendo. Ma insomma questo è un no al 99%, c'è sempre quell'1%. Bene, abbiamo perfezionato, siamo riusciti a perfezionare il nostro collegamento con Andrea Margelletti, il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionale, rientrato da pochi giorni da una missione ad Herat. Lo abbiamo sentito tra l'altro proprio nei giorni della morte dell'ultimo soldato italiano scomparso da quelle parti, Alessandro Di Lisio, e lo ringraziamo per essere con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'ospitalità. Noi stiamo facendo in questa settimana pre-agostana una specie di giro di orizzonte, Andrea. Ci sono degli scenari che seguiamo per mandato del programma, insomma, da molti mesi, se non da anni. Uno di questi naturalmente si chiama Afghanistan. Gli sviluppi nelle ultime settimane, come sai ben meglio di me, sono stati intensi, ma la lettura, l'interpretazione, non ultime le cose dette da Holbrooke proprio oggi in relazione a quanto sta accadendo in Afghanistan, sono spesso contrastanti. Allora io, tanto per cominciare, a te chiederei proprio un giudizio, un punto di vista dall'alto della tua professionalità, ovvero come stanno effettivamente andando le cose in Afghanistan. C'è una controffensiva congiunta inglese e americana in atto, c'è una situazione di pressione particolare, comunque diversa da quella di solo pochi mesi fa sulle rappresentanze militari degli altri paesi impegnati in quella terra. C'è uno scenario con una elezione a meno di un mese da oggi che si sta ridisegnando. Puoi darci un quadro della situazione, soprattutto sulla parabola andamento? Si può dire che la situazione stia migliorando o, come molti dicono, attenzione, il Vietnam potrebbe essere dietro l'angolo? La situazione non sta migliorando, sta deteriorandosi, perché finalmente facciamo le cose che dovevamo fare molti anni fa. Cioè stiamo andando peggio per andare meglio, come dice qualcuno. La realtà è questa, perché in alcune aree la NATO non si era neanche mai fatta vedere, e queste sono zone dove invece gli insorti avevano preso il controllo assoluto e totale. E quando naturalmente finalmente le forze della NATO sono andate in forze pesantemente in questi contesti per supportare il governo di Kabul, questo ha scatenato una ovvia risposta da parte di chi fino a poco tempo prima era il padrone incontrastato di quel contesto, di quell'area. Certo. Quindi questo è facile immaginare, però tutto viene fatto con molti anni di ritardo, l'ho detto tante volte, che anche grazie alla vostra disponibilità e ospitalità si spara troppo e si ricostruisce poco. Certo. E ricostruire vuol dire tanti soldi. Andrea, com'è possibile che questo buco colpevole di attività in Afghanistan si sia manifestato, sia andato in scena? Com'è possibile che l'Afghanistan sia riuscito a scivolare fuori, no, dallo scenario di crisi, dal centro dei riflettori, manifestandosi poi oggi in realtà come il più preoccupante degli scenari possibili? Ma io addirittura non sono convinto che lo scenario più preoccupante sia in Afghanistan. In Pakistan. Personalmente ritengo che sia il Pakistan il vero problema. Cioè, noi dobbiamo considerare l'Afghanistan come un problema regionale, non come un problema a sé stante. Se continuerà a esserci una sorta di passaggio pressoché incontrastato di decine e decine di miliziani armati di tutto punto che dal Pakistan vanno verso l'Afghanistan, questo è naturale immaginare che non possa continuare così e non risolva alcun problema. Quindi va visto come un problema globale. Sono assai più preoccupato del Pakistan che dell'Iran. C'è una dichiarazione che suona un po' come una provocazione da parte di Holbrooke, fatta oggi a margine dell'incontro con Solana a Bruxelles. In pratica ha detto: l'Unione Europea dovrebbe fare di più per aiutare il Pakistan ad affrontare la crisi dei rifugiati, vorrei vedere più sostegno dall'Unione Europea, solo gli Stati Uniti hanno dato per i rifugiati 330 milioni di dollari. Insomma, una serie di tirate di orecchie proposte da Holbrooke al comportamento europeo. Roma, però si leggono anche notizie come quelle che riguardano per esempio il contingente tedesco che sta modificando il proprio atteggiamento con l'atteggiamento delle truppe stanziate in Afghanistan. Insomma, mi sembra che la questione Afghanistan, sappiamo bene delle polemiche nel nostro paese, mi sembra che la questione Afghanistan in questo momento sia al centro dell'interesse e anche della partecipazione da parte dei paesi europei. Cosa pensi? Non di meno, Holbrooke rampogna, se mi passa del termine, l'Unione Europea, ma nessuno meglio di noi europei sa quanto sia difficile e complesso mettere tutti gli attori europei intorno al tavolo e fargli prendere una decisione comune. Non è così semplice, tenendo conto che poi proprio in Afghanistan ciascuna nazione, tramite i propri caveat, cerca di trovare una soluzione o un menù adatto a risolvere i problemi nell'area di propria competenza. Questo fa sì che la strategia sia non solo stratificata ma anche parcellizzata tra tantissimi soggetti. Lo dico da sempre, il problema non è come uscirne, il problema è come restare. Continuo a vedere, anche sulla base della mia esperienza in Afghanistan nei giorni scorsi, una difficoltà tangibile nell'avere una strategia comune e contestualmente in una comune applicazione di quali potrebbero essere le eventuali risoluzioni. Ecco, noi riprenderemo le trasmissioni di Jefferson quando saranno passate le elezioni in programma alla metà di agosto. Che cosa possiamo presupporre per l'Afghanistan di autunno, per questo scenario di autunno? Quali sono gli sviluppi che intravedi, Andrea? Vedo sicuramente una situazione sotto il profilo della sicurezza migliorata, perché il periodo di maggio-luglio è quello tradizionalmente dell'offensiva, quindi oggettivamente le cose andranno meglio, ma non perché necessariamente dal punto di vista politico sarà migliorata la situazione, ma perché in quel periodo molti dei miliziani torneranno a coltivare la droga e a occuparsi di altre cose. C'è da sperare che il migliore, tu hai ragione, ridiamo per non piangere. Certo. C'è da sperare che il governo afghano che uscirà dalle urne sia meno fragile di quello attuale, ma che soprattutto la comunità internazionale dia un appoggio al paese, all'Afghanistan, più coerente di quello che ha fatto sino adesso. Certo, tra l'altro c'è la notizia di altri due militari britannici del contingente di 9.000 uomini che sono caduti ieri. Con questa immagine tra campi di papaveri e mitra che ci ha dato Andrea Margeletti, che ben conosce quelle terre, chiudiamo il collegamento, ci risentiamo dopo le vacanze. Ti ringraziamo naturalmente della tua partecipazione, Andrea. Grazie a voi e naturalmente buone vacanze e buon lavoro. Outside the church, kicking a can. When the cedar branches twist, she turns her collar to the wind. The weather can close the world within its hand. And my mother says, Rebecca is as stubborn as they come. They both call to me with words I never knew. There's a bug inside the thimble, there's a band on a thumb, and a pony in the river turning blue. They say time may give you more than your poor bones could ever take. My Rebecca says she never wants a boy to be barefoot on the driveway as they wave and ride away, then to run inside and curse the open door. I once gave to my Rebecca a belated promise ring, and she sold it to the waitress on a train. Proseguiamo con gli aggiornamenti, cerchiamo di darvi un quadro complessivo delle storie che abbiamo seguito in queste settimane, in questi mesi. Una di queste riguarda, come ben sapete, l'Honduras. Il presidente Manuel Zelaya, deposto con un colpo di Stato il 28 giugno scorso, costretto a fuggire, ad uscire, ad allontanarsi dal paese. Ebbene, adesso arriva la notizia che è stata istituita una commissione speciale per decidere su una eventuale grazia da concedere a Zelaya, istituita dal Congresso honduregno sulla base della proposta del mediatore costaricano Oscar Arias. Ne parla il quotidiano El Mundo. La commissione dovrà stabilire se Zelaya ha violato o meno la Costituzione con le sue aspirazioni di estendere il proprio mandato presidenziale. Il Congresso deve rimettere la sua opinione entro il termine che scade giovedì, dice il Presidente del Congresso, e c'è quindi in vista sullo sfondo una possibilità di riabilitare Zelaya attraverso una grazia e quindi di trovare la strada per una pacificazione, una conciliazione tra i due poli opposti, no, rappresentati dal deposto Zelaya e dal golpista Maceletti. Washington insiste sul fatto che Zelaya deve tornare al potere e l'ex presidente continua ad essere accampato alla frontiera con il Nicaragua. Contiamo che le piogge stagionali, insomma, portino questa storia verso una soluzione, mentre invece non auguriamo piogge stagionali a Luca Vinciguerra, che anche lui si dovrà prendere prima o poi una vacanza dalla sua corrispondenza Sole 24 Ore da Shanghai, ma prima lo vogliamo distrarre un attimo dai suoi impegni per parlare di un argomento che sappiamo che gli sta particolarmente a cuore, che è un altro dei focus che Jefferson ha seguito negli ultimi mesi spesso e volentieri, ovvero Taiwan. Ebbene, c'è stata questa comunicazione del presidente cinese Hu Jintao, un telegramma di auguri al suo omologo taiwanese che si chiama Ma Yongzhou per la nomina a capo del Kuomintang avvenuta ieri. È semplicemente la prima volta che una cosa del genere capita in 60 anni, che i due leader si scambino, no? I due lati dello stretto si scambino messaggi amichevoli. Forse anche lì davvero sta succedendo qualcosa in questa Cina mai attiva come in questo momento sul piano diplomatico internazionale. Sentiamo il parere a riguardo di Luca Vinciguerra, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Luca. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Succede qualcosa, insomma, nella crisi più critica delle critiche, se possibile. Ma direi che l'aspetto, se vogliamo, curioso di questo messaggio non è tanto forse il telegramma inviato da leader a leader, perché telegrammi di questo tipo erano già stati scambiati l'anno scorso quando Ma fu nominato presidente di Taiwan, ma quanto al segretario del partito Kuomintang, del partito nazionalista, che, bene ricordarlo, è l'avversario storico, il grande nemico del Partito Comunista. Cioè, 60 anni fa, quando Mao concluse la lunga marcia vincendo la rivoluzione, cacciò in mare appunto l'esercito di Chiang Kai-shek, che era il massimo esponente, il leader massimo, il generalissimo del Kuomintang, del Partito Nazionalista, che fu costretto a riparare sull'isola di Formosa, che è appunto Taiwan. Quindi il fatto che oggi ci sia questo, diciamo, un messaggio di augurio e di buon auspicio tra un partito e l'altro è una cosa veramente dirompente. Ma alla fine ciò si spiega col fatto che paradossalmente i comunisti abbiano trovato proprio nei nazionalisti taiwanesi la loro sponda migliore per cercare di avviare un nuovo dialogo che possa portare a una pacificazione, a una riconciliazione tra le due sponde dello stretto. Ecco, perché ricordiamo, Taiwan tra il 2000 e il 2008 fu governato da un governo di aperta fede separatista, che al contrario voleva la separazione di Taiwan dalla Cina. Invece, se vogliamo, i nazionalisti sono sempre stati fedeli al sacro principio che esista una e una sola Cina. È un problema di vedere da che parte, quale sia la Cina giusta, insomma. Per i nazionalisti era Taiwan, per i comunisti era ovviamente Pechino e la grande Cina del mainland. Questo giusto per semplificare un po' le cose. Certo, certo. Tu hai una sensazione che questo disgelo, anche appunto sulla base di una finalmente trovata tolleranza politica, diciamo così, sia un procedimento a senso unico, cioè si vada verso una normalizzazione dei rapporti? Io ne sono assolutamente convinto. Diciamo, se non accadrà nulla di straordinario, qualcosa, la storia purtroppo, certo, ci insegna che possono sempre esserci incidenti che possono riportare indietro l'orologio di parecchi anni, se non di parecchi decenni. Direi che il processo è assolutamente quello, si è cominciato riaprendo i porti, si è ricominciato riaprendo i primi voli turistici, poi si è andato avanti istituendo ormai decine e decine di voli quotidiani che collegano direttamente Taiwan alla Cina, anche per i voli civili, per i voli business. Non trovi curioso che in un certo senso avvenga parallelamente tutto ciò dall'altra parte del mondo, tra Stati Uniti e Cuba, no? Che in un certo senso delle cancrene nei rapporti diplomatici si vadano avviando a una soluzione quasi parallelamente, come se si tendesse a semplificare le aree di crisi che continuano a esistere e sono ben gravi, e sappiamo quali sono, il Medio Oriente e quant'altro, ma che altrove invece vecchie situazioni stabilizzate nei guai, come dire, stiano avviandosi un po' tutte insieme, no? Forse è veramente ventunesimo secolo questo, non so come dire. Sì, beh, dobbiamo tenere presente che la guerra fredda finì 20 anni fa esatto. Certo. Da allora ci sono rimaste, diciamo, delle enclave pre-guerra fredda. Certo. Una è la situazione Taiwan-Cina, un'altra è Cuba-Stati Uniti, l'altra è la Nord Corea. Certo. Ecco, diciamo, di questi la più incancrenita al momento è sicuramente quella nordcoreana. Certo, certo. Dove invece, vedi, puntualmente degli annunci di aperture, di svolte, così seguono puntualmente delle evoluzioni. Delle docce fredde, certo. Ecco, nel caso di Taiwan io tenderei a essere molto molto molto ottimista, anche perché abbiamo da tutte e due le parti due leadership che sono fortemente intenzionate a andare d'accordo e a riconciliare davvero le due parti dello stretto. Ecco, questo, diciamo che adesso siamo alla parte più facile, poi ci sarà la parte più difficile, ricordiamo la Cina ha migliaia di testate missilistiche che sono state contro Taiwan. Certo. Ecco, che cosa succederà? Cosa succederà del rapporto storico tra Taiwan e gli Stati Uniti? Taiwan per 60 anni ha avuto le migliori armi statunitensi a disposizione, le ha comprate, ma le ha avute negli Stati Uniti, quindi tecnologia, certo, militare. Cosa succederà se Taiwan dovesse abbracciarsi troppo alla Cina? Questo è un altro interrogativo, anche secondo me, da porsi in un periodo molto molto lungo. Però stiamo vedendo che al tempo stesso a Washington stanno andando in scena, come abbiamo raccontato in apertura di programma, altre aperture assai importanti nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Io ringrazio Luca Vinciguerra del suo intervento, corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai. Questo è Jefferson di oggi. Stefano Pistolini in redazione Milano Enrico, Valerio Rocchetti e Filippo Aureggi a Roma e Milano per la parte tecnica. Replica a mezzanotte, diretta come sempre dopo le 4 qui da Radio 24. State tutti bene.